Piazze barocche, XVII-XVIII secolo. Piazza San Pietro, che è parte della città del Vaticano, è la regina delle piazze, un capolavoro del Bernini. La piazza è circondata da 284 colonne e sopra ci sono 140 statue di santi. Al centro della piazza c'è un obelisco egiziano, con quattro leoni di bronzo alla sua base. Ci sono anche due magnifiche fontane, una a destra e una a sinistra dell'obelisco. In fondo alla piazza c'è la Basilica di San Pietro con la famosa cupola di Michelangelo. La facciata della basilica è grandiosa, in accordo con la vastità della piazza.